Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. 10.000 telefonate da tutto il mondo per la piccola Maria, la bimba di 4 anni che è stata trovata dalla polizia greca durante una perquisizione in un campo rom vicino alla città di Farsala. Gli agenti si sono insospettiti per i lineamenti nordici, i capelli biondissimi, gli occhi azzurri della piccola, per niente simile agli altri membri della famiglia. I primi accertamenti e poi il test del DNA hanno confermato che la bambina non è figlia dei due che dapprima hanno detto di essere i suoi genitori e poi sono caduti in diverse contraddizioni. La coppia Roma ha negato di aver rapito la bambina e ora sostiene che Maria gli è stata affidata dalla madre biologica. I due, lei 40 anni e lui 39, sono stati arrestati con l'accusa di sottrazione di minore. La vicenda di Maria, che ora è stata affidata all'associazione greca Il Sorriso del Bambino, è sicuramente un argomento all'attenzione di tutti i giornali, tutti i telegiornali, emotivamente molto forte, prende tutti, da corpo ad antichissime paure e terrori. A quanti voi avranno detto: mangia la minestrina, sennò vengono gli zingari e ti portano via? Noi siamo stati cresciuti, allevati nell'idea che gli zingari rubassero i bambini. In effetti, gli zingari, i rom, come vogliamo chiamarli, comunque sia, sono sempre circondati da tanti bambini. Uno si chiede, se ne hanno già tanti, perché devono anche rubarne altri? Questa aspetto probabilmente mai certificato con esattezza e con sicurezza tra il leggendario, tra il terrifico, tra il discriminatorio, sta cominciando a prendere corpo, almeno è iniziata a prendere corpo in alcune notizie, due notizie. La storia della piccola Maria, la bambina bionda trovata tra i nomadi, una foto che circola in rete, tutti la guardano, vi risparmio i thread di commenti in rete, carina con le treccine sporche di una vernice rossa, le mani lo stesso, come acute editorialista si sono soffermate a descrivere giorni fa, con lo sguardo enigmatico, non si sa di chi sia figlia, sicuramente non è figlia dei suoi genitori, perlomeno delle persone che millantano di essere suoi genitori. Naturalmente si è aperta la caccia ai genitori, 10.000 chiamate da tutto il mondo di persone che reclamano la figlia, addirittura c'è il giallo di una tomba vuota di due genitori che dicono che la loro bambina, che era morta alla nascita, non è mai stata trovata nella tomba, quindi potrebbe essere questa bambina. Ma questo ha fatto sì che naturalmente una notizia se ne affiancasse un'altra. Anche in Irlanda sono apparsi due nomadi con una bambina bionda anche lì, quindi è nato il problema delle bambine bionde in mano ai nomadi. E questa, poi, nomadi non è nemmeno il termine esatto, perché sono dei rom, una famiglia rom che vive ad ovest di Dublino è stata trovata con questa bambina. Si è subito riverberata la notizia. Un altro caso, allora è vero, gli zingari rubano i bambini, poi invece hanno fatto il test del DNA, era veramente figlia della coppia che come tale la reclamava. E poi ci sono acute dissertazioni etnobiologiche, dicono che in realtà esistono dei filoni dell'etnia rom che hanno i capelli biondi e gli occhi azzurri, quindi non è così singolare, così normale, così anormale vedere dei rom con dei bambini biondi, anche perché sarebbe aperta la caccia al bambino biondo dei rom. Come la pensate voi? 800240024, siete convinti che realmente i rom o gli zingari, secondo una dicitura classica e arcaica e favolistica, rubino i bambini? Ne avete prove? Ne avete testimonianze? È mai accaduto qualcosa che vi facesse pensare che questo sia vero? Chiamatemi. Perché si sa benissimo che i rom, che poi sono gli zingari, così ci si capisce bene tutti, sono soliti fare il traffico di bambini, comprarli, mandarli a rubare, picchiarli. È il motivo per il quale i rom dovrebbero sparire dalla faccia della terra. Questo è il motivo, capito? Bisognerebbe prendere tutti i campi nomadi di cui l'Italia è piena, basta che voi andate a Roma a vedere quello che c'è o intorno alle grandi città, prenderli, impacchettarli tutti e rimandarli benché vada da dove sono venuti. Perché i zingari sono dei delinquenti. Ma da dove vengono? Di natura lo sono, inutile che mi si venga a dire. Mi dispiace solo una cosa, che questo bieco dialogo sia con un accento perugino, vengono de Perugia, di cui conosco comunque l'arcaica maniera di analizzare la contemporaneità. Questa è Vox Populi, comunque molto molti la pensano. Prendeteli, impacchettateli, rimandateli a casa loro, tienteli a casa tua. Già sarò accusato di essere difensore, ma voglio comunque avvicinarmi, se possibile, a sondare, analizzare e certificare anche il luogo comune, anche il pensiero comune. Cioè dire che il Daily Mail, che è un magazine più che rispettabile, ha fatto un'inchiesta dove presenta che in realtà, a fronte di questa bambina rapita, secondo loro esiste una gang che in parte è stata smantellata, che gestisce ogni anno 200 bambini che vengono poi instradati al mestiere dell'accattonaggio. Pare che questa sia una ramificazione europea, hanno prove che accade in Francia, accade nel Regno Unito, che accade in vari paesi d'Europa. Su questo però non è che nel frattempo hanno portato poi prove concrete, è anche ancora una materia tutta da discutere. Ma voi come la pensate? Sei convinti che gli zingari rapiscano i bambini, li rubino per farne non si sa, per darli alle coppie che non hanno figli, per fargli fare gli accattoni per strada o per altri innominabili usi? Fatemi sapere come la pensate. 800 24 00 24. Proprio scema, io mi brucio, io vado alla strada, se metto sono lontano ospedale, poi moriamo. Cioè, se sono nomadi che non danno fastidio possono stare da tutte le parti, però se sono nomadi che devono vivere per alle spalle nostre o rubando o tutto quanto, bisogna trovare una sistemazione lontano. Dando la possibilità pure a loro di vivere bene. Comunque il problema è. Esiste un lontano che non si avvicina a qualcuno? Questa è la domanda che ci facciamo. Nicolò, buongiorno. Buongiorno, ho chiamato semplicemente, volevo ricordare una semplice notizia che era uscita poco tempo fa di una zingara che era stata beccata in spiaggia mentre stava rapendo un bambino. E semplicemente volevo dire che mi sono pentito amaramente vedendo la notizia in TV, che visto che dico anche a Bergamo in centro città mi è capitato di vedere una famiglia che più o meno era la fotocopia di quella vista in TV, e mi sono pentito di non aver chiamato i carabinieri. Perché lei ha visto qualcosa che accadeva di simile al centro di Bergamo? Sì. Era proprio, mi è venuto anche il dubbio che fosse la stessa bambina, perché era una famiglia rom con una bambina nordica in braccio e c'erano i tre figli dei rom che erano completamente. Quindi anche lei, diciamo, è per il colpo d'occhio etnico, bambino biondo potrebbe significare bambino rapito, e lei non se l'è sentita di andare a fondo del suo sospetto? Sì, poi vedendo la notizia in TV mi sono diciamo un po' pentito del fatto, visto che era una cosa anche abbastanza palese, c'era cioè una cosa che dava un po' di sospetto. Quindi. Vabbè, questo è il suo parere. Altri hanno pareri simili a quelli di Nicolò, a contrasto rispetto a quello di Nicolò, mi interessa saperlo. Daniela, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi ascolti, io ho seguito questa storia dei rom già da questa mattina, da ieri sera, chi l'ha vista, eccetera. Vado al punto. Allora, io abito a Piazza Venezia, sono stata testimone più volte di furti di giovani rom con i cartoni eccetera. Ho preso la mano della rom dalla linea 64 mentre la infilava nel sì portello. Ma di portafogli parliamo, allora ascolti, poi ci sono i piccoli furti negli appartamenti, cui fanno dei buchi piccolissimi in cui si introducono i bambini. Allora, ma li rubano i bambini secondo lei? I bambini, ecco, sappiamo bene che rubano, perché no, non è piccoli. Che i bambini che rubano è scontato, lo sappiamo tutti, ma sì. I rom rubano anche i bambini per poi mandarli a rubare. Ok, questa è una cosa gravissima. Ma lo domando, lei lo sa o no? Questo no, non posso saperlo. Allora perché ha telefonato? E allora non ci faccio perdere tempo. Scusi, voglio sapere una cosa. Nella trasmissione precedente mi dicono che i piccoli, i minorenni, non possono essere per cui seguibili in quanto sono minorenni. Ma hanno dei genitori, se qualsiasi nostro figlio. Vabbè, sta dicendo Daniela, è un altro argomento, banalissimo. Stefano Trasatti, buongiorno. Buongiorno. Stefano Trasatti, direttore dell'agenzia Redattore Sociale. Stefano, ti ho fatto ascoltare un attimo, perché tu conosci bene quella che è la percezione generale, una grande confusione, un gran desiderio di dare corpo comunque alle paure, ai luoghi comuni, ma a fronte, ad esempio, dell'inchiesta del Daily Mail, di quello che si legge sui giornali, hai qualche dato certo? Esiste una certezza giuridica, di cronaca, di realtà in cui hanno preso dei nomadi che rubavano i bambini? Dunque, per quanto riguarda l'Italia, c'è una ricerca molto attendibile che è stata commissionata nel 2008 dalla Fondazione Migrantes, è stata fatta dall'Università di Verona, prendendo in esame tutti i 40 casi di questo genere, sia dall'archivio dell'ANSA sia dai tribunali, 40 casi. Di questi 29 erano per presunto rapimento di bambini da parte di Rom e 11 erano casi di sparizioni. Ebbene, la risposta è zero. Nessuno di questi casi, di questi procedimenti giudiziari andato fino in fondo ha stabilito, anzi alla fine è stato negato che si trattava di un rapimento di bambini da parte di Rom. Quindi i fatti sono questi. Anche il caso che è venuto dopo di Ponticelli, lo ricordiamo, sì. No? C'è stato il rogo della, anche questo è molto controverso, perché quella ragazza Roma è stata condannata, però c'erano anche altri reati e comunque è un caso che rimane molto controverso. Quindi la risposta è no, in Italia non è stato mai accertato nulla, al di là delle notizie di cronaca che vengono spesso trattate con molta evidenza, ma poi vengono semplicemente taciute o nascoste quando il procedimento va in fondo, c'è stato mai un caso di rapimento di bambini. Ti faccio un'altra domanda, Stefano, ti faccio un'altra domanda, poi dopo tanto avremo modo di ritornarci fino alla fine della trasmissione. Avrebbero una loro qualsivoglia utilità nel rubare bambini, rapire bambini? Ammesso che abbiano comunque delle attività illecite, che delinquano, questo dato per scontato, non è l'argomento della trasmissione. Nella loro infinita maniera di inventarsi la giornata rubando nelle case, facendo tutte le cose che normalmente possono essere addebitate, non è questo l'argomento. Avrebbero un loro vantaggio nel rapire i bambini? Le poche volte che i Rom sono stati sentiti, perché i Rom parlano pochissimo, quasi mai sui giornali, loro a questa domanda hanno risposto sempre in un modo indignato, perché rivendicano di amare molto i loro bambini, mettono in evidenza il fatto che sono molto prolifici, ogni famiglia ha molti bambini. Ne hanno già tanti del loro, quindi. E non hanno assolutamente bisogno di rubare altri bambini. Questo mi sembra, oddio, sul fatto che li amino tanto, anche recentemente, che sono episodi di cronaca, vedere bambini piccolissimi imbottiti di Rohypnol perché debbano far pena, che sembrano dei cadaverini lungo la strada, non è certo un oggetto di amore. Ci sono fatti di questo genere, sia in Italia che all'estero. Però sono fatti assolutamente marginali se noi andiamo a guardare. A collocarli in una statistica. Anche il caso dei bambini schiavi di cui accennavi all'inizio di questo traffico, a cui probabilmente si riferisce il Daily Mail, si tratta spesso di affitto, di bambini in affitto, quei dati in affitto dalle famiglie povere a queste famiglie rom, che vengono poi avviati all'accattonaggio, utilizzati, sfruttati. Si tratta di casi di delinquenza, di gravissima emarginazione, è comunque una cosa diversa dal rapimento di bambini. Ci fermiamo un istante, diamo l'informazione del traffico, poi riprendiamo con Stefano Trasatti, di Redattore Sociale. Melog, cronache meridiane. La bimba inglese, la ricorderete, scomparve improvvisamente in Portogallo. Ora il tabloid britannico pubblica una lettera scritta dal pedofilo Raymond Hewlett, nella quale l'uomo rivela una serie di particolari. Ero in Portogallo quando un mio caro amico Zingaro mi raccontò di aver rubato Maddy per conto di terze persone. Abitano tra il fango e le lamiere delle auto dismesse e di auto, ne hanno pure di grossa cilindrata. Zingari della ex Jugoslavia, ma ricchi, proprietari di conti correnti bancari, di beni mobili e immobili per un valore di 1 milione di euro. Adesso abbiamo messo insieme tutta una serie di notizie che vengono date, che hanno sempre al centro comunque le attività illecite dei Rom, in particolare l'accusa più pesante che grava su di loro, ma come ci ha detto Stefano Trasatti ancora non supportata da dati concreti, che rubino i bambini. Le ipotesi che fa il pubblico sono tante, dicono per prendere gli organi e venderli al mercato degli organi, per farne usi innominabili, altri mi dicono non ascolterò più questa trasmissione, che chi difende i Rom ha problemi psichici, non difendo nessuno, mi ho detto che muoio da folle amore per i Rom, sto semplicemente cercando di riportare in termini concreti quella che è una notizia che sta appassionando tutti. Massimo, buongiorno. Massimo. Massimo non c'è. Simone. Sì, buonasera Nicoletti. Sì. Senta, io il problema non so se i rom effettivamente rapiscano i bambini o no. Io l'unica domanda che mi pongo, faccio il trasportatore, vedo campi di rom tutti i giorni. E cioè sono una terra di mezzo, vivono nella sommersi dall'immondizia con macchine. Sì, ma oggi parliamo dei bambini, non è il problema. Ho capito, cosa fanno i rom. Mi chiedo, perché vedendo questa situazione, anche se fossero le persone più per bene del mondo, da lì fa sospetti. Questo è il suo punto di vista. Dice, siccome vivono in situazioni subumane, potrebbe accadere di tutto. È un punto di vista. Simon. Buongiorno. Buongiorno. Io vengo da Albania, la mia testimonianza è successo 4 anni fa, sono stato in estate e dal quel giorno ho visto una signora anziana zingara che ha preso un bimbo per mano che era del quartiere. Un'altra signora l'ha fermato, ha detto dove vai, lo porto da sua mamma, diceva. No, molla qua, e non voleva lasciare. Sono intervenuto anche io, l'ho sgridato dal poggiolo e poi l'ha mollato il bimbo. Quindi secondo lei assistiva a un tentativo di rapimento? Sì, secondo me quella signora anziana lo portava via. Ha fatto i passi, ne ha fatto un bel po' di passi e quell'altra ne ha avuto i dubbi, quella signora lì l'ha fermato perché i zingari si vedono da lontano. Sì, poi posso dire una cosa, è piena la rete di queste testimonianze, ho visto una zingara con un bambino, lo stava portando via, l'hanno fermata, succede nelle spiagge, succede, però che realmente esista poi una denuncia o un certificato reato di rapimento del bambino, come ci ha detto Trasatti, non risulta agli atti, non dico che non sia accaduto in assoluto, dico che non risulta agli atti. Massimo. Pronto? Ecco, l'abbiamo recuperato, sì. Buongiorno, senta, io vorrei dare un mio parere, insomma, sì. Modesto, sono un antropologo, un etnopsichiatra, quindi mi occupo in particolare proprio di queste dinamiche, insomma, E quindi ci illumini per quanto può, per rispetto. Guardi, brevemente, allora, questa è una vecchia storia che vale ai tempi, insomma, di quando le popolazioni, una parte delle popolazioni decidono la stanzialità, cioè di essere stanziali. Ricordo che una delle accuse più infamanti che si faceva alle comunità ebraiche è che mangiassero i bambini o li sacrificassero nei loro rituali strani. Abbiamo dei santi di bambini cristiani che dicono era stato mangiato o ucciso dagli ebrei, quindi figuriamoci. Esatto, quindi gli stanziali anche nello sviluppo delle loro religioni, dei loro riti, iniziano a osteggiare il nomade, il cacciatore raccoglitore. E quindi questa è una dinamica molto profonda, cioè chi è stanziale comunque ha un'avversità nei confronti di chi gira, di chi è girovago, no? E questo è un aspetto profondo, psicologico. Dei tempi di Caino e Abele, chi coltiva la terra ce l'ha con chi va in giro allevando gli animali, è chiaro. Esatto. Poi un'altra questione, cioè proprio per natura il nomade non fa rapimenti, perché è contro la sua organizzazione, la sua struttura, ha bisogno di muoversi agevolmente sul territorio, cioè non può rapire persone di altri gruppi sociali. Quindi Massimo, la sua teoria, se la posso riassumere, visto che abbiamo sempre poco tempo, è che un antico e atavico pregiudizio che c'è dagli inizi della civilizzazione umana si riverbera attraverso i moderni sistemi di diffusione del sapere, ma rimane sempre la solita storia. Chi sta fermo e stanziale vede le persone che non hanno una fissa dimora come probabili ladri dei propri figli, per delle ragioni profonde non abbiamo qui tempo di spiegare. Lorenzo. Sì, buongiorno. Io volevo essere una voce un po' fuori dal coro, nel senso che, per carità, io non è che provi simpatia per i rom o per... Ma è fuori discussione questo, il tema è mirato. Però quello che penso io è che comunque non è che si abbiano tutte queste prove, poi episodi ci possono essere anche stati, ma prove che queste persone rapiscono i bambini in giro, francamente io non le vedo. Poi parliamo di percentuali, adesso c'è questo caso, ma quanti bambini sono stati rapiti da persone occidentali per vari scopi? Abbiamo avuto anche recentemente conoscenza di queste tre rapimenti, di queste tre ragazze che per anni sono rimaste rinchiuse in una casa negli Stati Uniti. Diciamo, se ci fermiamo alle percentuali dell'orrore, sono più bravi professionisti, illuminati vicini di casa che poi tengono nei loro garage per anni, per decenni, chiusi i bambini che diventano grazie per farne un loro uso personale, per trasformarli in loro schiavi. Stefano Trasatti. Beh sì, come vediamo non è che i rom godano di di grande... Ma questo è dato per scontato, certo. Di ottima stampa. Perché... Non fanno manco nulla per goderne, diciamoci la verità, comunque. Sì, perché però sono, a volte sono anche un po' un bersaglio ideale per scaricare molte nostre... Ci fa comodo a tutti, ci fa comodo a tutti, perché certo. sono precari, sono sporchi, sono disordinati. L'ha detto il camionista, no? Dice basta dei ricampi, figuriamoci. Beh, appunto, io però inviterei tutti a vivere in quel modo, nei campi, senza acqua, eccetera, e poi vedere se riusciamo a essere puliti, ordinati e non puzzare, certo. Poi sono scuri di pelle, parlano strano, rubano, chiedono l'elemosina, per carità. Però, insomma, al di là di questo, poi bisogna andare sui fatti. Posso dire una cosa sulla questione della bandina bionda? Perché c'è un'associazione che si chiama AISO, un'associazione molto antica che sta a Torino, lavora con i Rom, dice attenzione, al di là di questa vicenda, poi prima o poi si scoprirà da dove viene questa bambina bionda, però i Rom biondi non sono affatto una rarità e citano il caso di Fata, che è figlia di Rom, che sono originari della Bosnia Erzegovina, i genitori sono biondi, lei ha gli occhi azzurri, la madre era bionda e questa, la mamma racconta questa, ogni volta che veniva fermata dalla polizia, molto spesso ci venivamo portati in caserma, arrivano genitori di figli scomparsi per cercare di identificarmi e poi mi rilasciavano perché si accorgevano che non ero io quello che stavano cercando. Era un periodo in cui cercavano assolutamente la prova, la pistola fumante, ma erano i cosiddetti zingari bianchi, che sono biondi con gli occhi azzurri e quindi confondibili con altre persone che vivono anche meglio. Grazie Stefano Trasatti, a domani.